Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. In primo piano l'emergenza immigrazione. Questa mattina l'incontro fra il ministro dell'Interno Angelino Alfano e il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. In diretta Livia Zancaner. Sì, buongiorno Piera. Allora ricordiamo, ieri Matteo Renzi ha detto che le proposte dell'Unione Europea sulla suddivisione dei migranti sono largamente insufficienti. Oggi il portavoce della Commissione Europea ricorda che l'esecutivo ne discuterà in prima istanza nel Consiglio Interno il 15-16 giugno e poi nel vertice di fine mese. L'incontro a Bruxelles sarà una delle riunioni più importanti, ha ribadito il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos al termine dell'incontro di questa mattina con il ministro dell'Interno Angelino Alfano. We need the contribution. Abbiamo bisogno della solidarietà e del contributo di tutti gli stati, spiega il commissario europeo. Sono qui per lanciare un messaggio forte. L'Italia e la Grecia non sono da sole. La Commissione europea sarà qui per sostenerle. E Alfano risponde: la proposta della Commissione europea è un importante e significativo passo avanti. Il ministro avverte: non siamo ancora soddisfatti dei risultati raggiunti fino a qui. Lavoreremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per ottenere dei risultati più importanti. E per ora è tutto, a te Piera. Grazie Livia Zancaner. Ieri il voto in Turchia che ha tolto la maggioranza assoluta al presidente Erdogan. L'Unione Europea auspica ora la rapida formazione di un governo. L'affluenza record all'86% è stato un chiaro segno del rafforzamento della democrazia turca. È il commento dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Federica Mogherini e del commissario europeo per la politica di vicinato e negoziati per l'allargamento Johannes Hahn. Il futuro prossimo, dicono ancora, offre opportunità per rafforzare ulteriormente le relazioni fra Unione Europea e Turchia. Un avvicinamento all'Unione Europea auspicato anche dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Un paese democratico che sceglie, nonostante le difficoltà che ha attraversato, che sceglie in modo democratico i suoi rappresentanti, quindi noi innanzitutto rispettiamo i risultati elettorali. Nel rispettarli ci auguriamo che possano essere un contributo nella direzione che ci interessa, e ci interessa cooperare con questo paese su diversi scenari di crisi internazionali e sviluppare, se possibile, il percorso della Turchia verso una associazione con l'Unione Europea, che è nell'interesse sia dell'Europa che della Turchia. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble e il suo omologo greco Yanis Varoufakis si sono incontrati oggi a Berlino. Un accordo sul caso Grecia assolutamente essenziale per l'integrità dell'Eurozona, ha detto Varoufakis, che ha definito l'incontro lungo, produttivo e molto utile. La crisi greca naturalmente è rimbalzata anche al G7 in Corsa del Mau in Baviera, e noi ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Buongiorno. Ufficialmente, naturalmente, la Grecia non è nell'agenda del G7, però è ovvio che se ne è parlato. Ci sono qui diversi dei principali protagonisti: il cancelliere tedesco Merkel, il presidente francese Hollande, il primo ministro italiano, il direttore del Fondo Monetario Lagarde, il presidente della Commissione Juncker. Lo stesso Juncker ha detto ieri che non ha ancora ricevuto una proposta greca su cui si possa fare un vero e proprio negoziato. Quindi la Grecia resta un po' sospesa, anche se tutti sono consapevoli che ormai il tempo stringe, la scadenza è quella del 30 giugno. La discussione sulla Grecia si intreccia con quella sull'economia mondiale. Stamattina da fonte francese era uscito che il presidente americano Barack Obama avrebbe mostrato una certa problematica con il dollaro forte. La cosa è poi stata smentita dalla Casa Bianca. Certo, gli americani spingono perché gli europei facciano di più per la crescita. Grazie ad Alessandro Merli, ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.